Cazzo di piveli. Sono senza cartine come farò, si è rotto il bong e palle, due scimmie sulle spalle, Donkey Kong. Rubato come un ciclista, non trovi il fumo, si cristi e ci sentono fino a Hong Kong. Yeah. Yo, Simo X King del bong. Noi le Rolling Papers, voi sembrate i Rolling Stones. Bella John, faccio una bomba, stappo una bonga e si tentenna. Rappo veloce, tanto che mi chiamano Ayrton Penna. Toc toc, posso entrare, c'ho da fumare. Sotto shock quando scopro che il bong l'ha rotto Ale. Ma non so, uno ce l'ho, se vuoi passare te lo do. Nel posto dove sto sembra legale, come al coffee shop. Ci puoi giurare, arrivo con due bong da sturare. Questa è King Bong, io regina, chiamami Queen Bong. Continui a darci dentro, ma non è manco più il fisico. Io andamento lento come De Pisco. Oh, Franco uscito sul beat, forte come Need for Speed. Fumo weed da Champions League, tu solo da martedì. Sì, sturo bong, mica Lavandini. Come Armstrong, sempre primi. Facciamo rap very strong, riuniti in studio, presi bene ad ogni nuova song. Beat e flow doc, qualità da sommelier. Varioni assicurati, perché ormai qui tutti sanno che garantisce Ernest, garantisce Ernest, garantisce Ernest. Chi mi copia è solo un fake. Garantisce Ernest, garantisce Ernest, garantisce Ernest. Chi mi copia è solo un fake. Che cazzo di pivelli, ma dico io, ma come cazzo stanno che sono 14 anni, ma dovete ancora impadrogarvi voi. Non lo so, dai, vai. Non sono ispirato in questo momento. Deve venire, dai. Yeah.